Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Eccoci qui, cari ascoltatori, come ogni domenica, col nostro più affettuoso saluto da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Allora, stasera abbiamo veramente lo studio gremito, di uomini. E di personaggi particolarmente graditi, devo dire, ecco. Abbiamo il nostro poeta Emilio Gallina, che ormai è un... Non è nuovo, insomma, lui è stato tante. E poi abbiamo una grande personalità della cultura, che è il signor Marcello Cocchetto. Ma tutto questo a dopo. Allora diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, e il numero di telefono per SMS, consigli, proposte, suggerimenti, critiche ed altro, che è il 346 23 20 033. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione. Occorrerà che ci facciamo il callo a questi termini anglosassoni, naturalmente. Non dimentichiamo, evidentemente, un saluto al nostro regista. Ciao regista mio. È nostro, dai, diciamo, ma io me lo sento, vabbè, ormai dopo 10 anni capite che, insomma. Allora, prima di dare la parola al poeta Emilio Gallina per la presentazione del signor Cocchetto, ci ascoltiamo una canzone un po' così, un po' romantica, e penso che sia anche in tema, ed è intitolata La mia poesia, cantata da Peppino Gagliardi. Azzurro, solo e soltanto mio, sentivo solo te, parlavo solo a te, non c'era vento che ti portasse via, eri la mia poesia. Mia poesia, un poeta, mi sentivo con te e cantavo le cose più belle, le cose più grandi. Per te. Parlava la luna, parlava le stelle, a tutte le cose di te. Ed i sogni più belli del mondo, in fondo ai tuoi occhi, cercavo con te. Thank you. Eccoci di nuovo in studio e do subito la parola al signor Emilio Gallina, che ci presenterà così in sintesi il nostro ospite Marcello Cocchetto. Gentili radioascoltatori, buonasera da una voce che spero vi giunga gradita. E approfitto subito, perché poi si può andare in dimenticatoio, di fare gli auguri di Natale e di un buon anno a tutti. Li faremo anche dopo, ma intanto mi sono preso avanti. Parleremo di Marcello Cocchetto, che è qua che mi ascolta. Marcello risiede da sempre a Santa Bona, nell'immediata periferia di Treviso, e da sempre mi è amico. A lui devo la mia uscita nel mondo della poesia, quando mi introdusse nel circolo Amici della Poesia. E quindi lui è poeta, innamorato del dialetto e della città. I suoi versi, premiati in diversi concorsi, si sono così imposti un po' all'attenzione e gli sono nati dal cuore, e poi li sentiremo naturalmente. Ci sarebbe molto da dire di lui e indubbiamente qualcosa diremo stasera nel corso della trasmissione. Mi limito a introdurlo per poi metterlo nelle mani della Gesuina, perché è lui che deve raccontare di sé, delle sue molteplici attività di lavoro ed artistica, cominciata a Santa Bona con la compagnia Cocodè, nome stranissimo, ma poi lui spiegherà perché, alla quale per breve tempo ho fatto parte anch'io, quindi si va a qualche anno fa. Marcello Cocchetto è una presenza discreta e anche troppo la sua. È un vero gentiluomo, direi che non vi sono abbastanza aggettivi per definirlo. Un giovane allora presentatore con una carriera artistica a livello nazionale, purtroppo troncata ad un avverso destino. I 20 anni che si porta nel cuore lo fanno memoria storica di un lungo periodo culturale trevigiano, come presentatore straordinario di spettacoli e iniziative benefiche cittadine, con partecipazione ad altri eventi e in altre città italiane. Insomma, un personaggio straordinario che avremo modo di sentire. E poi io mi rimetto in parte e lascio la voce a lui e agli altri amici qui presenti. E come faceva lui, dico, ecco a voi Marcello Cocchetto. Grazie Emilio. Grazie, sì. grazie. Troppo. Dunque, da giovane ho frequentato una palestra di allievi pugili. Ero peso piuma. Negli allenamenti sul ring ce la davamo forte, ma molto forte. Mollai tutto perché non era per me e non mi piaceva la canzone Occhi Ciornia, Occhi Neri. Edoardo De Filippo ha detto che i ricordi sono i capelli bianchi del cuore. Facendo i salti mortali con gli orari di lavoro, ero ferroviere, feci la patente di guida, mai avuto un'auto per l'avvenire. Feci un corso di dattilografia con la brava maestra Cisolla, che abita qui a Treviso, un corso di stenografia, sistema Gabes-Bernoulli, che non ho potuto finire per mancanza di tempo. Ho prestato servizio militare di leva. Ci racconta quali sono le sue grandi passioni, Marcello? Le cose belle della vita. La poesia, che è la terapia dell'anima, la musica, che è un linguaggio universale, l'arte, che è gioia degli occhi e del cuore, la lettura, che è stata definita cibo della mente. È bella la lettura. Allora, io invece sono curiosa. Cosa ne pensa della parola, una parola sulla lingua italiana? La lingua italiana è la più bella del mondo. Se ci sarà tempo, ho un bel aneddoto dei miei fratelli che sono emigrati in Canada. E sul nostro dialetto, presumo da quello che ne ha detto prima Emilio, che sia una passione praticamente di lunga data, o sbaglio? Sì. Confermo. Il poeta Diego Valeri ebbe a dire: il dialetto è la lingua più visceralmente nostra. Ah, addirittura. Beh, adesso ci parli un po' della compagnia Coccodè, alla quale ha partecipato anche il nostro Emilio. È la compagnia trevigiana d'arte varia. Ecco, Emilio ha già detto qualcosa. La compagnia Coccodè è nata a Santa Bona nell'immediato dopoguerra. La componevano i fratelli Alberti, Emilio Gallina, il popolare Ciccio, Piero, Piero Simeoni e Elia Cucchi, Luciana Borsato, Ferruccio Pillon, Antonio Altinier, Gianni Longheu, Giovanni Tessarolo e anch'io con mia sorella Banda. Eravamo un gruppo che poi si è unito a un gruppo di amici della città e così nacque la Compagnia Trevigiana di Arte Varia. Avevamo l'orchestra, i cantanti, le cantanti, i comici e abbiamo fatto spettacoli ovunque, veramente scintille in quell'epoca. In seguito Giamba Mussetto entrò alla RAI e ha fatto una bella carriera alla RAI. Giancarlo Granziero divenne apprezzato giornalista. Leonida Coghetto divenne voce storica dello stadio Tenny, diresse un giornale sportivo ed è il nonno di Matteo Tagliariol, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Un parterre de roi, diciamo. E per quanto concerne i ricordi un po' più lontani, diciamo di qualche anno fa, i ricordi di scuola, che cosa ci può dire? Frequentai per 3 anni la scuola commerciale serale. Era preside allora il professor Paolo Maldari, che presiedeva anche i corsi diurni. Conobbi amici in gamba. Piero Visentin, entrato in seguito alla RAI, lavorò con Enzo Tortora. Vilia Furlan, che divenne ragioniera, fu assunta all'ULS. Maria Fotto, che sposò Bottegal, il negozio di occhiali di Piazza dei Signori. Nereo Carniato, assunto in Casamarca e che lei, gesuina, avrà certamente conosciuto. E chi è? Eravamo maggiorenni e presi una cotta di quelle forti per una compagna di classe. Non era destino. Ero di famiglia modesta e lei sposò un ricco. Oggi do ragione a Roberto Murolo quando cantava «L'amore è una ferita». Volevo chiedere una cosa prima di passare alla seconda canzone in programma. Maldari sarebbe il padre della avvocatessa Maria, mi pare si non so come si chiami, sì, avvocatessa che ha lo studio in via di allora, ecco, brava, ecco. E anche marito di una nostra poetessa, Nelly Maldari, ho capito. Sorbara. Sì. Io ho conosciuto anche la mamma, la moglie di questo Carlo, questo Maldari, anche la figlia, perché è stata... Ecco, la moglie era appunto questa Nelly, era anziana, insegnante, allora, sì, insegnante, una sì. Brava signora. Sì, sì, una donna molto... Anche lei? Sì, sì, sì. Una donna molto energica, mi sembrava. Sì, sì. Allora, ci fermiamo un momentino per ascoltare la seconda canzone in programma. E che la seconda canzone in programma è cantata da I Santo California ed è intitolata Maledetto Cuore. Thank you. Eccoci di nuovo in studio con un'altra domandina che vorrei fare a Marcello. Ci ricordi qualche personaggio trevigiano? Io sono curiosa, se mi piace sapere queste cose. Sono tanti, tanti, tanti. Ne cito alcuni. Maria Lorenzon Sartorello, che vendeva sementi sotto la loggia dei Cavalieri. Checo e Angelo Sberzetto. Ah, sì. Checo sono un po' i cofondatori del gruppo folcloristico trevigiano, tutti e due. Checo era un poeta e ha detto un giorno: ho fatto le scuole alte perché basso gli sbianchisava. Addirittura. Angelo invece era il fisarmonicista. È il direttore della fisorchestra Armonia, molto noto. Ciccio Gaina, che abbiamo qua. Ah sì, adesso lo conosciamo. Ciccio Gaina, non lo conoscevo. Ciccio Gaina. Giorgio Garatti, che è il direttore di Sport Trevigiano. Giorgio Garatti. Figlio Antonio. Sì. La moglie Maria. Antonio Altinier. Chi era Antonio Altinier? Il barbiere di Madonna Caranda. Dietro Santa Maria Maggiore aveva il negozio di parrucchiere. Poi vediamo Giorgio Fantin. Ciccio Fantin. Mamma mia, Fantin lo conosciamo bene. Ecco. Arturo Malossi, Lacrima. Ecco, Arturo Malossi. Malossi, sì. Noto Malossi. Teatrante o sbaglio? Capocomico, sì. E compagnia, io l'ho conosciuto. E a Roncade, nella casa di riposo. A Roncade, nella casa di riposo, sì. Perché lo chiamavate Lacrima? Facevano il duetto Lacrima e Rimorchio. Lui era Lacrima, perché si vestiva da clown. Ah. E Rimorchio era Franco Crespan, che aveva l'autorimessa in via... via Burchiellati, vicino al convento di San Francesco. Facevano cabaret, loro due, bravissimi. È stato con noi l'anno scorso. Ecco, poi il Negus, che era un tipo, una macchietta qua di Treviso, che beveva e lo conoscevano tutti. Franco Crespan, direttore del gruppo folcloristico. Maurizio Meneguz, sempre del gruppo folcloristico. Antonio Chiarparin, che è il direttore della banda di Treviso. Sì. Architetto preside dell'artistico attualmente, se non ricordo male. Sì. No, ma non è morto Antonio Chiarparin? No, assolutamente, naturalmente. Ma allora c'era un potremmo Chiarparin... fare dei gesti apotropaici. Forse il padre. Era il padre che vendeva... Strumenti in Riviera. Sì, il papà. Io ho conosciuto lui poco, ma la sorella. La sorella ho conosciuto molto. Poi la Muscoeta, la Pescaria. La vedova di Muscoi, sì. Già in Madonna Granda. La Iturina dell'osteria di via Manzoni, d'Arman. Ed anche lei, gentile, genuina, che ricordo bene col suo cane guida. Anche lei era un personaggio di Treviso. Ed è ancora. Sì, si ricorda ancora di me? E come no? Poi ho altri personaggi, cavalieri della Casa Albergo, ma se c'è tempo diremo. No, ma lei ha conosciuto anche il cavaliere, quello che è nel Casa Albergo. Gino Cavalieri. Ecco, Gino Cavalieri. Il famoso capocomico goldoniano, fantastico, mi onorava della sua amicizia. E mi diceva: conte me barzete, ma guarda che sia bessa, se no fate manco. Ha conosciuto poi anche i signori Barpi? Barpi, famosi. La banda De Benedetti. La coppia, marito e moglie, bravissimi. Faccio tanti auguri perché stiano bene. Sì, speriamo che stiano bene, sì. Poi, oltre a Cavalieri, in casa, un giorno gli ho detto: mi dica una battuta di una commedia. Lui mi ha detto: ciao, non te sa, mi pare Baruffe Ciosotte. Dice che se Momoeto che dice: fratelli, se vuoi coparmi, copeme, ma il manco salve me a vita. Questo era Cavalieri. Che bello. Poi c'era la signora Lavalle, che ha sposato quel famoso industriale del vetro, Lavalle. Lei era finlandese di nascita, ma parlava italiano perfetto, ha scritto tante poesie e ha scritto quello che mi rimane in mente: sono nata pazzamente felice e morirò felicemente pazza. Bella sta cosa. E poi c'era la Regalia, una signora romana, ospite sempre della Casa Albergo, poetessa. Mi ricordo un verso, a quasi 100 anni, è scritto: ardere sempre per sentirmi viva. Beh, non è mica sbagliato, eh? Questo bisogna che me lo segni. Perché, no, veramente no, sono cose che ti aiutano anche a vivere. Era bella anche a quasi 100 anni, bellissima. Straordinaria. Soltanto un po' di cipria e un attimo di rossetto, basta, ma bella come, come era bella, la sorella qua di Marcello, Lavanda, era una ragazza straordinaria che faceva parte appunto della compagnia Cocodè. E era un po' l'ammirazione di tutta la sciappata dei Tosardi, no? Che veramente eccezionale, aveva una bella voce anche. Bella voce, sì, ma ha rinunciato alla vita, alla carriera di cantante per diventare una buona mamma e una brava moglie. Va bene, allora adesso ci fermiamo per un'altra canzone, la terza canzone che è cantata da Adriano Celentano, andiamo un po' sul quello che non ti ho detto mai. Tra i tanti personaggi che Marcello ha ricordato, chiedo scusa che io mi intrometto in questa discussione, Ecco, sarebbe da aggiungere un sacco, perché effettivamente ci sono stati tanti trevigiani importanti e che Marcello ha conosciuto e anche collaborato insieme, vedi per esempio Mario Dal Monaco, che lui non ha citato. Vabbè, volevo ricordare, perché sono invecciando di fare gli auguri a due persone in particolare, cioè a Giorgio Galati e sua moglie, che sono così sotto pressione un pochino per la salute, e il professor Enzo De Mattè, anche lui è molto provato. E a tutti questi facciamo amici, facciamo gli auguri di pronta guarigione o di una ripresa. La Riger. Giusto, Marcello, ma entrava nel SIL. Comunque, visto che ci sono, faccio gli auguri anche alla Riger Segna Silvestrini, la nostra poetessa che ha compiuto 100 anni tondi e ci ha invitato tutti ai 101. E speriamo di arrivare, di esserci. Speriamo. Non poniamo limiti alla provincia. E a proposito di poesie, eccetera, vorremmo introdurre così una espressione letteraria che vi è molto cara, se non ricordo male. È il SIL. Parliamo del SIL. Il nostro SIL. È il mensile, giornale mensile, espressione del Circolo Amici della Poesia, fondato nel 1971 da Alberto Albanese Senior, operaio, e figli, col dottor Andrea Cason, noto poeta. Scopo: salvaguardare e diffondere il nostro bel dialetto. Attualmente è diretto da Adriano Gionco e direttore di redazione è la Bruna Brazzalotto. Riunione mensile a Palazzo Scotti. Ecco, allora gli auguri che li ha già fatti Emilio per la Riger, per De Mattè e tutti i nostri amici che non stanno bene. Bene, allora ci reciti anche, perché sempre noi vogliamo sapere tutto di lei, visto che è qua, e ci reciti qualche poesia. Allora, radicio del buon umor. Ah, bello. Radicio da basi, radicio da magnar. Fior e anguria invernal, ventada de primavera, terra vivi e mense ne staion più freda. Penel appetitoso, inventa per gargato e stomego, nel tuo estremo viaio, l'oio che consa e che sluse, se il tuo ultimo vestito, la tua ultima prosa, e in bocca te sorridi ancora e te canti allegro sotto i denti. Che carino. Questo è il nostro radicchio. Trevigiano. Pomicachi, zai patocchi, sul vostro sol ride a suca e l'autunno conosce l'agonia. Picai cantè in allegria, giurando che e foie cascarà prima l'ore, vincendo a scommessa. Pomicachi, pomi che innamora, se speranza che incoraia. E se ancora una illusione che l'istadea de San Martino non possa mai finir. Sfidè l'inverno e su ste ultime cartucce dell'autunno se ghete affamae si impastroccia il becco finché si passue. Bella, bella. Io lavoravo in stazione e mi ricordo per la città che vedevo sempre Gesuina col suo cane. E allora vorrei ricordare Gesuina con questi pochi versi. Can per una non vedente a Gesuina Maccari. Te vedo tutti i dì, beatosa, coi tuoi occhi stuai. Se i fosse sani, te pararissi una Madonna. E il can conosce a tua voce e ti, con la guida sul suo corpo e col guinzaglio in man, te diventi tutta una colù che te compagna assieme, de guidarte e in seguito colocio te ammiro il vostro accordo e la bravura de lu che te avverte del pericolo, che se ferma a ogni ostacolo, che te aiuta a camminare per la strada giusta. Anche per chi vede che voria un can così. Grazie, bella, bella. Un'ombretta ti tien su. Un'ombretta, emozione sempre nuova, raggio de sol che stussica il morbin, eccita l'appetito, regue l'intestin, lubrifica il corpo e anche disinfetta. Bevo un per de ombre a seute e son già in gringue. Bevo per l'amicizia sceta, per amar sempre e per sognar a occhi verti. Bevo perché il vin fa sangue, è semplice e sincero, e fa l'occhio lustro, e te cambia siera. Stavo cercando un dottor che prescriva un brete per prima, durante e dopo i pasti, perché il buongiorno si vede dal buon vino, e da che mondo se mondo, senza l'ombreta, l'uomo non canta e neanche non il campa. E questa, Marcello, l'ha sentita, per se l'era dimenticato, durante il filò a Santa Cristina, che parlava dei vini imbriaghi e osterie. È stata una riscoperta che effettivamente mi è tornata molto simpatica. Sì, che è me l'ha recuperata, me l'ha recuperata lui. Sì, ma lui è stato un sostenitore della serata con delle barzellette straordinarie. Sì, oh, che bello. È sempre in gamma, Marcello. Ma veramente. E il SIL, abbiamo detto il SIL, e il SIL è anche il nostro giornale, sentito il SIL. E il SIL, però adesso parliamo del fiume. Il Sils è quel fiume che bagna Treviso, una sventola di piume che caressa il suo viso. E il ga tanti anni, ma le rive incantae, fedella ai trevisani e fa più belle i giornai. Il Sils è quel fiume che ingentilisse Treviso e passa ogni giorno portando un sorriso. Che bella! Menono Alpin adorava il vin. Beh, gli alpini. Menona Marietta era geosa dell'ombreta, perché menono Angin, onesto e forte alpin, sempre pien de morbin, e adorava il vin. Amico di tutti, il diceva: meglio l'osteria che la farmacia. E in osteria il faceva partie a scopa e a tresete. E mia nonna già era preoccupata, mi mandava in osteria a stare dritto al nonno e contare le ombre che il trincava. Lui mi pagava patatine e Coca-Cola e mi dava anche a mancia. Boccia, piuttosto di far la spia, un alpin dice una bugia. Così a casa, delle ombre bevute del nonno, che ne dicevo solo la metà. La nonna pareva contenta e tutto era sistemato. Ma che bello! Che belle cose di una volta. Ecco, queste ultime tre sono in lingua italiana. Mamma una sola. Il silenzio della sera è come una preghiera. Tu, mamma, a riposare, io di qua a vegliare. Domina il sangue, il tuo respiro, che mi ricanta dentro, e il canto è speranza. La tua serenità mi rinfresca il cuore, e senza posa doni tanto amore. Tu sei lo spazio dove il mio spirito riposa. Bella questa. Io quando sento poesie sulla mamma mi commuovo sempre. Siamo in clima natalizio, quindi filò natalizio. Bene. Una sera soltanto a filò, nell'umiltà di una povera stalla, riscaldata dal fiato di un bue e dal respiro di un asinello. Non dormire, ma pensare a chi ha tanto patito. E a mezzanotte sentire un tenero vagito. Che significativa. Sì, i pastori di oggi. Gesù bambino con le manine aperte, nato in una stalla, guarda, ti prego, le mamme, i papà, i nonni, i bambini, i giovani, i pensionati, i senza lavoro, i malati, che ti pensano, ti cercano, con commozione e affetto. Guarda, sono come i pastori di quella volta, la stessa fede, gli stessi sentimenti, uguali le emozioni, le speranze, le passioni. Gesù bambino, con i braccini aperti, benedici, ti prego, questa buona gente che sa del presepio i valori e che ha voglia di scaldarti, sì, di scaldarti dentro i loro cuori. Bella. La poesia è sempre una cosa significativa. Sì, dalla poesia, ora, prima della prossima canzone, vorremmo così ritornare alla biografia del nostro personaggio, parlando della sua attività di presentatore. Il mio slogan era qui Rai Radio Teleconfusione Italiana. Allora, ho presentato veglioncini per i bambini, sfilate dei cari mascherati, premio della bontà degli amici al Ponte Dante, Errode a Vecia, quel gruppo folcloristico trevigiano, la banda musicale cittadina, sia al Teatro Comunale, ora del Monaco, e sia in Piazza dei Signori. I concerti dell'Assunta in Piazza Madonna Granda, e qui è stato l'inventore, è stato Malossi, Arturo Malossi, sì, parliamo, sì, del che è un evento, diciamo, che è 1980, ormai il primo concerto a Madonna Granda, padrino Mario Del Monaco. Del Monaco, che è stato padrino per 3 anni, 80, sì, 81, sì, 82, ed è morto il 16 ottobre dell'82. Esatto. Mamma mia, proprio. E poi il premio letterario, il Graffito d'Oro. Dove? Nelle varie città italiane. Era diviso in 3 sezioni: poesia, saggistica e narrativa. Poi il Trio Minio, col più piccolo batterista del mondo, il Pavanello. Mostre d'arte, spettacoli in case di riposo, negli asili, nelle scuole. Poi cori, voci nuove, un paio di volte anche in carcere. Anche in carcere. E alla fine ci hanno fatto uscire, perché? Per fortuna nostra. A proposito del carcere, siamo andati insieme con la compagnia Cocodè, c'era anche la Wanda, la sorella di Marcello, che aveva una FIFA. Una mia del mal, veniremo fuori. Siamo venuti fuori anche con un sacco di battimani. C'eri anche tu? Poi ho sposato una guardia carceraria. Bene, adesso ci ascoltiamo un'altra canzone. Allora, penso che tutti si ricorderanno la trasmissione di Renzo Arbore, Indietro Tutta, e aveva, cioè, ha ancora una bella orchestra, mi piace, insomma. E fra tutte le canzoni che hanno presentato, ce n'era una cantata da Leo di San Felice, che, il quale imita proprio benissimo Wanda Osiris. Wanda Osiris era una grande soubrette degli anni 50, 40-50. E così io stasera volevo farvi ascoltare proprio questa interpretazione di Leo di San Felice, che canta Fa la cortesia. Fa la cortesia, vieni a casa mia, non averti mai. Me. Là ti aspetteranno baci e fiori profumati ed un salottino tutto rosa come te. No, non devi avere nulla da temere quando sei accanto a me. Via, non esitare, non farti pregare, io ti saprò dare tutta la felicità. Thank you. cortesia, vieni a casa mia, non aver timore di me. Là ti aspetteranno baci e fiori profumati e un salottino tutto rosa come te. No, non devi avere nulla da temere quando sei accanto a me. Via, non esitare, non farti pregare, io ti saprò dare tutta la felicità. Eccoci di nuovo in studio e adesso facciamo un'altra domanda al nostro Marcello. Ci parli di qualche altra attività? Per un periodo ho fatto parte della JAC Miani a Madonna Granda, dove ho conosciuto Tony Basso, i Pantaleoni, i gemelli Simeoni, Carlo Chiereghin, fratello di Gigi, Antonio Chiades, poeta, i Ferracin, Comin, i giovani del CTG, Centro Turistico Giovanile Miani, portarono una targa raffigurante Madonna Granda sul Monte Pelmo. È una data bella quella. Ho fatto parte anche del gruppo Maschere Carlo Goldoni di Venezia, impersonando Arlecchino, Brighella, Lelio, affiancato da Colombina, Rosaura, Pantalone, con esibizioni in Piazza San Marco, Ca' Giustinian, nei vari campielli e poi i carnevali di Modena e Bassano e le riunioni nazionali che facevamo ogni anno a Venezia. Pensa a quante cose. Un personaggio così eclettico, diciamo, e multiforme, ha anche effettuato delle collaborazioni scritte, quindi vorremmo sapere qualcosa anche di queste. Sì, anni addietro ho collaborato con la rivista L'Amico dello Studente, che veniva pubblicata a Osimo, in provincia di Ancona, e poi con il Burchiello dei Poeti Veneti di Venezia. E attualmente? Attualmente con il SIL e con Sport Trevigiano. Beh, adesso così ci racconti, avrà avuto delle emozioni fortissime. Beh, ce ne racconti qualcuna per piacere. Ecco, una forte che mi è rimasta. Anni addietro, in viale Burchiellati, di sera e non visto da nessuno, trovai per terra un portafoglio. Sono sceso dalla bicicletta, lo raccolsi, ho estratto la carta di identità, visto il nome del proprietario, mi recai subito in vicolo Rialto a portarlo appunto alla persona che lo aveva smarrito. Non dimentico, ecco questo è il punto, non dimentico il suo pianto, il pianto di questo uomo e la sua gioia. C'era il suo stipendio. Pensa un po'. E qui possiamo dire che lei ha avuto una, come dire, una vita, per usare un eufemismo, molto intensa, o sbaglio? Bontà delle persone che ho conosciuto, e sono tante, e con le quali ho avuto contatti per l'attività. Attività che si è svolta lungo parecchi, molti anni. E occorre sempre avere coraggio e sentire sempre 20 anni nel cuore, ecco. Il che non è una cosa semplice, naturalmente. Mi sento anche oggi. Ma giustamente. Anche sono, buona attitudine. Sono un anziano a rischio. No, niente rischi. Dicono che si è anziani vecchi quando si muore, quindi lei è ancora qui vivo e vegeto. Siamo a raccontarcela. Anziani d'epoca. Ma comunque l'importante, io le invidio questi 20 anni nel cuore, sempre, e li invidio proprio. A Roma dicono ercore non invecchia mai. Ercore non invecchia anche mai. Anche qua però non è vero, è vero, a Roma. E così, ha anche dei rimpianti? Ecco, uno in particolare, l'investimento stradale. Io sono nato in bicicletta e quasi morivo in bicicletta. Oh. è un tasto doloroso e la gente ha già tanti problemi e pensieri e non ha bisogno di tristezze. Oh, beh, io se lo racconta. Ho dei postumi, ma ai dolori non do confidenza. Ecco, questo, questo è importante. Dico solo questo al responsabile, responsabile del mio dramma, perché sono stato danneggiato fisicamente, moralmente e anche economicamente, ma non importa. Dico al responsabile che l'ho perdonato e che viva tranquillo. Sì, Marcello è appunto un signore, qui non ne vuole mai parlare, però in quell'occasione che è stato investito a Milano, che si recava alla RAI per prendere Milano l'incarico di presentatore. Penso. È tramontato tutto e sono ringrazio Dio che sono vivo e sono qua, perché quanti... Con il rimpianto di una carriera e di, una, sì, perché se di cose che si possono solo ipotizzare oggi naturalmente, sì. Però la forza d'animo, d'animo giustamente sì. Dice questo. E riesci ancora ad avere 20 anni nel cuore, guarda, sempre, è grande questa cosa. Sempre 20 anni. È grande, grande, grande, bisogna che ce la teniamo sempre presente. E qui, esatto, e qui vorremmo fare anche una domanda, che è la domanda delle 100 pistole, come dicono gli americani. Quali sono le cose importanti per lei? Quelle veramente importanti. Ecco, ricorro al pensiero del filosofo Giuseppe Petich, che ha scritto, fra le tante cose belle, ha scritto: non potrei vivere senza amare e sperare. Ecco, questo è il mio... Non potrei vivere senza amare e sperare. Importanti sono la semplicità, l'amicizia, la cordialità trevisana, e sottolineo, volersi bene e rispettarsi, tutta quasi a vita. Per quanto riguarda l'età, dai, invito tutti a imitare Rita Levi Montalcini, che ha 103 anni. Penso che tutti vorremmo arrivarci come ci è arrivata Rita Montalcini. Sì, questo è un augurio che noi ci facciamo, vero, con tutto il cuore, perché comunque lei ci doveva raccontare ancora un aneddoto che io lo sto aspettando. Ah, ecco, sì, allora, come ho anticipato, ho un fratello e una sorella emigrati in Canada e una sorella emigrata in Svizzera, sono trevisani nel mondo. Ah, sì. C'è anche la rivista Bella Mensile. Sì. Allora, mio fratello mi ha raccontato questo aneddoto. Un giorno lui e la sorella camminavano e davanti a loro c'erano degli amici inglesi. E mio fratello e mia sorella si sono messi a parlare in italiano, dietro loro due. E parlato di non so di che cosa. Da un momento però hanno smesso e hanno ripreso, hanno smesso di parlare italiano. Il signore, l'amico che era davanti a loro, si è girato e ha detto loro: dite, continuate a parlare italiano, io non capisco quello che dite, ma sento la musica. È una lingua musicale italiana. Sì. Strilussa, così a memoria. Sì, prego. Sì. Ecco, Strilussa è come... sappiamo, ha un rapporto favoloso con gli animali e le sue poesie hanno tutta una morale fra lo scettico e il sorridente. Allora, mi piace questa qua, la divisa. C'aveva una divisa assai elegante, me la guardavano tutti per la via. Sarà stata forse la più interessante che ci abbia avuto nella vita mia. Ma un giorno, come fu, come non fu, me la rubarono e non la vidi più. Ma che divisa era, per favore? La divisa d'arpino, bersagliere? Ma che era, una divisa d'aviatore, d'elefante o di carabiniere? Che stai dicendo mai? Ma che hai capito? Era una donna divisa dal marito. Che carina! Erleone. Nel deserto dell'Africa, Erleone, che s'era piantato un ago drento al piede, chiamò il tenente per l'operazione. Bravo, gli disse dopo. Io te ringrazio. Vedrai che te sarò riconoscente di avermi liberato de sto strazio. Qual è il pensiero tuo? D'essere promosso? Beh, se posso ti darò una mano. E quella sera stessa ritornò da tenente e gli disse: amico, la promozione è certa e te lo dico perché mi sono magnato il capitano. Forte Marcello. Posso dire una cosa dopo anche Emilio? No, Giovina, ti lascio la parola perché siete voi un po' i conduttori. No, volevo chiedere una cosa a Emilio. Posso? Volevo ringraziare Marcello per la sua testimonianza qua, che effettivamente, come dicevo prima, è un uomo molto, molto riservato, molto schivo, ma è di una grandezza unica e gliene siamo grati di questo. Mi sopravvalutate. No. Sono un po' rodiavo. No. Ma come si fa a avere 20 anni nel cuore e considerarsi un poro diavolo? Il cuore è appunto a parte. Io vorrei chiedere ad Emilio se ha una poesia da dedicare a Marcello. No, o meglio, l'avevo dedicata perché c'è un particolare dire di lui, che era il titolo Un postin speciale. Dovete sapere che ogni settimana o 15 giorni, cioè quando usciva Sport Trevigiano ed esce Sport Trevigiano, immancabilmente mi arriva un postino, e per quello che ho chiamato speciale, con su sul giornale scritto a Emilio e Ketty, sarebbe la mia sì. moglie, e effettivamente ho un appuntamento che ho sempre, diremo così, gradito e continuo a gradire. Lui, come dire, io ho scritto questa poesia, non l'ho portata perché non era... Sì, dovevo anche portarla perché giusto lui è qua. Ma no, mi sono dimenticato. Salutiamo anche la Ketty. Salutiamo la Ketty. I figlioli straordinari e i sei nipoti. Mamma mia. Quanti sono? Sei? Sì, sei. Ma lui ha scritto, Emilio ha scritto delle belle poesie sui suoi nipotini. Quanti sono i libri che hai scritto? Guarda che non si parla di me. No, io volevo chiederti appunto se non hai proprio niente, nessuna poesia qui tu. No, non l'ho portata. Ma di nessun tipo, neanche quella, siccome giovedì era Santa Lucia, se avevi quella che avevi scritto... Ti dico, Gesualdo, siccome sì, così festeggiamo un po' questo nostro personaggio, festeggiamo Marcello, così non ho pensato, mi dispiace. Non importa, noi abbiamo festeggiato Marcello e... E allora passiamo, diciamo, prima dei saluti finali, eccetera, all'ultima canzone. Passiamo all'ultima canzone che è cantata dalla squadra Italia, nella quale c'era Nilla Pizzi, Mario Merola, tutti questi cantanti, e qualcuno di loro non c'è più, ma noi li ricordiamo sempre. E la canzone si chiama Una vecchia canzone italiana. Distesa nel mare che in ogni canzone ci parli d'amore. Terra di grano e di fiori, di sole e di vino, di spine e di allori. Terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti deve lasciare. Ogni paese ha una festa, una banda che suona. Una piazza, un caffè. Terra di santi poeti e troppi mafiosi e pochissimi preti. Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più. Terra rimasta in dolore, la gente da parte per terra lontana. Ma in ogni posto del mondo, comunque tu vada, da solo non sei. Senti una radio che suona you canzone è una storia che nasce da ogni emozione e ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita. Voce di popoli stanchi da forza un'idea che non vuole più. E in ogni casa del mondo arriva volando dipinta di blu. Eccoci di nuovo in studio, ma questa volta purtroppo il nostro tempo è scaduto. Noi ringraziamo di vero cuore il nostro Marcello Cocchetto perché è stato veramente grande e devo dire la verità, mi ha dato delle emozioni. Ringraziamo anche il nostro poeta Emilio Gallina che gentilmente ce l'ha condotto. Vi aspettiamo ancora, ecco, aspettiamo, ci sarà ancora qualche altra trasmissione. Lei torna, vero signor Cocchetto? Sì. Ecco, e poi anche il nostro poeta Emilio che deve... per un dialogo, sì, perché... due voci sulla poesia. Che ma è una anche cosa lui deve presentare un libro che non ha ancora presentato qui in radio, vero Emilio? Questo se lo resto dici di tu, sì, se lo dici tu lo okay. Faremo. D'accordo. Antonio, ti ringrazio. Io ringrazio te e ringrazio i nostri ospiti squisiti e straordinari e ci possiamo dare una prossima volta, alla prossima volta, allora, la prossima domenica. Io vi saluto sempre, come sempre, con affetto, dicendovi ciao ciao. Buon Natale a tutti. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.